ancora i ricordi confusi attraversando la mia persiana. Ed io sorto ancora con gli occhi socchiusi, vedo morire un'altra settimana. Vissuta veloce, bevuta ad un fiato, come questo momento già consegnato ai nostri ricordi, alle nostre poesie disseminate sulle nostre vie. Intanto ti vedo sempre più grande, non posso dormire, c'è lei che mi attende. Il cuore vicino ma tu sei distante, potessi strappare le tende. Mettendole in fila un tappeto farei e volare, volare tra stelle e pianeti per dirti incantato che bella che sei. Non ho più confini, non ho pareti. Magica come un asso fuoriuscito dalla manica, unica come la sesta linea e il quinto spazio in musica. Non ti fermare, danza qui con me sul mare. Tutto ciò di cui ho bisogno è la tua luce nel mio sogno. Lasciati guardare, vuoi i miei occhi o il mio cuore. Sai che non c'è differenza ed io non posso stare senza. Gli uni e l'altro stanno insieme e li confondo, forse perché sei la stanza e la finestra di quest'anima che canta di te. Yeah. Yo es.